Paragrafo primo. La naturale aspirazione degli uomini alla conoscenza. Tutti gli uomini sono protesi per natura alla conoscenza. Ne è un segno evidente la gioia che essi provano per le sensazioni, giacché queste, anche se si metta da parte l'utilità che ne deriva, sono amate di per sé, e più di tutte le altre è amata quella che si esercita mediante gli occhi. Infatti noi preferiamo, per così dire, la vista a tutte le altre sensazioni, non solo quando miriamo ad uno scopo pratico, ma anche quando non intendiamo compiere alcuna azione. E il motivo sta nel fatto che questa sensazione, più di ogni altra, ci fa acquistare conoscenza e ci presenta con immediatezza una molteplicità di differenze. È un fatto naturale, d'altronde, che tutti gli animali siano dotati di sensibilità, ma da tale sensibilità in alcuni di essi non nasce la memoria e in altri sì. E appunto, perciò, questi ultimi sono più intelligenti ed hanno maggiore capacità di imparare rispetto a quelli che sono privi di facoltà mnemoniche. E sono intelligenti, ma non hanno capacità di imparare, tutti quegli animali che non sono in grado di percepire i suoni, come l'ape e ogni altra classe di animali che si trovano in simili condizioni. Hanno invece la capacità di imparare tutti quelli che sono forniti, oltre che della memoria, anche dell'udito. Nella vita degli altri animali, però, sono presenti soltanto immagini e ricordi, mentre l'esperienza vi ha solo una limitatissima parte. Nella vita del genere umano, invece, sono presenti attività artistiche e razionali. E negli uomini l'esperienza trae origine dalla memoria, giacché la molteplicità dei ricordi di un medesimo oggetto offre la possibilità di compiere un'unica esperienza. Anzi, pare quasi che l'esperienza sia qualcosa di simile alla scienza e all'arte. Ma in realtà l'esperienza è per gli uomini solo il punto di partenza da cui derivano scienza ed arte, poiché l'esperienza crea l'arte, come dice Polo, e dice bene. Invece la mancanza di esperienza crea solo eventi fortuiti. L'arte nasce quando da una molteplicità di nozioni empiriche venga prodotto un unico giudizio universale, che abbracci tutte le cose simili fra loro. Infatti l'esperienza si limita a ritenere che una certa medicina sia adatta a Callia, colpito da una certa malattia, o anche a Socrate, o a molti altri presi individualmente. Ma giudicare invece che una determinata medicina è adatta a tutti costoro considerati come un'unica specie è compito riservato all'arte. Orbene, sotto il profilo strettamente pratico, sembra che l'esperienza non differisca affatto dall'arte. Anzi, noi vediamo che gli empirici conseguono anche un successo maggiore rispetto a quelli che si basano sulla sola ragione senza avere un'adeguata esperienza. Il motivo di ciò sta nel fatto che l'esperienza è conoscenza del particolare, mentre l'arte è conoscenza dell'universale. E tutte le attività pratiche e produttive si occupano del particolare, giacché il medico non ha sotto cura l'uomo se non in via accidentale, ma sotto cura Callia o Socrate o qualche altro individuo designato con tale appellativo e a cui è cosa accidentale essere uomo. Se pertanto un medico non tiene conto delle esperienze e si basa sul suo ragionamento e conosce l'universale ma ignora il particolare che è in esso, molte volte sbaglia la cura, perché è proprio il particolare quello che bisogna curare. Ciò nonostante, però, noi siamo del parere che il conoscere e l'intendere siano proprietà piuttosto dell'arte che dell'esperienza, e consideriamo quelli che sono tecnicamente preparati più sapienti di quelli che seguono la sola esperienza, giacché reputiamo che in ogni caso la sapienza si accompagna alla conoscenza. E ciò è dovuto al fatto che gli uni conoscono la causa, gli altri no. Gli empirici, infatti, sanno il che, ma non il perché. Quegli altri invece sanno discernere il perché e la causa. E anche per questa ragione noi riteniamo che in ogni attività professionale i dirigenti siano più degni di rispetto e abbiano maggiore conoscenza e siano anche più sapienti dei semplici manovali, giacché conoscono le cause dei loro stessi prodotti. Poiché essi sono più sapienti non in virtù della loro attività pratica, ma perché posseggono la teoria e distinguono le cause. In generale, ciò che contraddistingue chi sa da chi non sa è la capacità di insegnare. Ed è questo il motivo per cui noi riteniamo che l'arte, più che l'esperienza, possa accostarsi alla scienza. Giacché quelli che conoscono l'arte possono insegnare, mentre gli altri no. Riteniamo inoltre che nessuna sensazione possa identificarsi con la sapienza. Le sensazioni, da parte loro, sono indubbiamente fondamentali per l'acquisizione di conoscenze particolari, ma non ci spiegano le cause di nulla. Ad esempio, non ci dicono perché il fuoco sia caldo, ma soltanto che esso è caldo. A buon diritto, pertanto, l'inventore di una qualsivoglia arte, la quale si distaccasse dal comune mondo delle sensazioni, è stato anzitutto ammirato dagli uomini non soltanto per l'utilità di qualcuna delle sue invenzioni, ma perché egli stesso è stato ritenuto sapiente ed eccellente rispetto agli altri. E a mano che aumentavano di numero i ritrovati delle arti, alcune di queste in relazione con i bisogni della vita, altre con il piacere, gli uomini che si sono dedicati a queste ultime sono stati sempre considerati più sapienti degli altri, per il fatto che le loro conoscenze non hanno nulla a che fare con l'utilità. Di conseguenza, solo quando tutte le arti di tal genere si furono sviluppate, vennero alla luce quelle scienze che non hanno attinenza né col piacere né con i bisogni. E ciò si riscontrò in primo luogo in quei paesi dove gli uomini godevano gli agi della libertà. Per questo motivo le arti matematiche fiorirono dapprima in Egitto, giacché colà veniva concessa un'agiata libertà alla casta dei sacerdoti. Sicché, come prima dicevamo, chi si basa sull'esperienza sembra essere più sapiente di chi si fonda su una qualsiasi semplice sensazione, e chi si basa sull'arte sembra essere più sapiente di chi si basa sull'esperienza. E il dirigente più del semplice manovale, e le attività teoretiche sembrano superiori a quelle pratiche. Ciò che pertanto rimane evidente è che la sapienza è una scienza la quale si occupa di certe cause e di certi principi. Paragrafo secondo. Natura e prerogative della filosofia. Poiché la nostra indagine verte appunto su tale scienza, noi dovremmo esaminare quali cause e quali principi costituiscono l'oggetto di cui la sapienza è scienza. Tale ricerca può venire condotta con maggior chiarezza se consideriamo le opinioni che abbiamo intorno al sapiente. In primo luogo, noi riteniamo che il sapiente conosca tutte le cose nei limiti del possibile, senza che però egli abbia conoscenza di tali cose nella loro particolarità. In secondo luogo, reputiamo sapiente chi è in grado di comprendere le cose difficili e non agevolmente accessibili all'umana conoscenza. Provare una sensazione è in realtà una cosa comune a tutti, e perciò è una cosa facile e non è indizio di sapienza. Inoltre, riteniamo più sapiente chi in ogni ramo della scienza conosce le cause con maggiore esattezza e sa meglio insegnarle. E fra le scienze, quella che è preferibile di per sé stessa e ai fini della conoscenza è più autenticamente scienza rispetto a quella che ci interessa per i suoi risultati pratici, e quella che maggiormente comanda è più autenticamente sapienza rispetto a quella che esegue gli ordini, giacché è indispensabile che il sapiente non riceva ordini, ma sia lui a darli, e che non sia egli ad obbedire ad un altro, ma il meno sapiente ad obbedire a lui. Tali e tanti sono i nostri modi di considerare la sapienza e i sapienti. Se teniamo conto di tali prerogative, risulta indispensabile che la conoscenza scientifica di tutte le cose sia proprietà di colui che conosce l'universale nella maniera più elevata, giacché questi, in un certo senso, conosce tutto ciò che all'universale soggiace. Ed è senza dubbio molto arduo per gli uomini saper discernere queste cose, ossia le più universali, giacché esse sono molto remote dalle sensazioni. D'altra parte, le scienze più esatte sono quelle che si attengono massimamente ai primi principi, giacché quelle che si basano su un minor numero di principi sono più esatte di quelle che si fondano su un aggregato di principi, come ad esempio l'aritmetica è più esatta della geometria. Ma oltre a ciò, la scienza che studia le cause è anche più istruttiva di quella che non le studia. Solo coloro che ci sanno dire le cause di ciascuna cosa sono in grado di insegnare, e il puro sapere e il puro conoscere sono le massime prerogative di quella scienza che ha per oggetto il conoscibile nel suo grado più alto. Chi, infatti, preferisce il puro conoscere, sceglierà massimamente quella che è scienza al massimo grado, e tale è, appunto, la scienza di ciò che è conoscibile nel grado più alto. E sono conoscibili nel grado più alto i primi principi e le cause, giacché mediante questi e in base a questi sono conosciute le altre cose. E non questi sono conosciuti mediante le cose che da essi dipendono. Ed è suprema e più importante rispetto alla scienza subordinata ad essa quella scienza che conosce il fine per cui si deve compiere ogni azione particolare. E questo fine è il bene di ogni cosa particolare e in linea generale il sommo bene nell'intera natura. Pertanto, in base a tutte le nostre precedenti considerazioni, risulta che il nome su cui noi stiamo conducendo l'indagine rientra nell'ambito della medesima scienza, poiché questa non può fare a meno di contemplare i primi principi e le prime cause, e il bene, ossia il fine, è una delle cause. Che essa non sia una scienza produttiva risulta con chiarezza anche da qualche considerazione su quelli che diedero inizio alla riflessione filosofica. Infatti gli uomini, sia nel nostro tempo sia da principio, hanno preso dalla meraviglia lo spunto per filosofare, poiché da principio essi si stupivano dei fenomeni che erano a portata di mano e di cui essi non sapevano rendersi conto. E in un secondo momento, a poco, procedendo in questo stesso modo, si trovarono di fronte a maggiori difficoltà, quali le affezioni della luna e del sole e delle stelle e l'origine dell'universo. Chi è nell'incertezza e nella meraviglia crede di essere nell'ignoranza. Perciò anche chi ha propensione per le leggende è in un certo qual modo filosofo, giacché il mito è un insieme di cose meravigliose. E quindi, se è vero che gli uomini si diedero a filosofare con lo scopo di sfuggire all'ignoranza, è evidente che essi perseguivano la scienza col puro scopo di sapere e non per qualche bisogno pratico. E ne è testimonianza anche il corso degli eventi, giacché solo quando furono a loro disposizione tutti i mezzi indispensabili alla vita e quelli che procurano benessere e agiatezza, gli uomini incominciarono a darsi ad una tale sorta di indagine scientifica. È chiaro allora che noi ci dedichiamo a tale indagine senza mirare ad alcun bisogno che ad essa sia estraneo. Ma come noi chiamiamo libero un uomo che vive per sé e non per un altro, così anche consideriamo tale scienza come la sola che sia libera, giacché essa soltanto esiste di per sé. Perciò, giustamente, si può anche ritenere che il possesso di essa è cosa sovrumana, giacché per molti aspetti la natura dell'uomo è schiava, e però, secondo Simonide, soltanto un Dio può aver tal privilegio, mentre l'uomo è in grado di ricercare soltanto quella scienza che gli è adeguata. Ma se c'è qualche verità nelle affermazioni dei poeti e se la divinità è per sua natura invidiosa, giustamente la sua invidia si dovrebbe esercitare soprattutto in questo caso. E tutti gli uomini eccellenti dovrebbero essere sventurati. Ma è inconcepibile che la divinità sia invidiosa. Anzi, si deve prestar fede al proverbio secondo cui molte menzogne dicono i cantori. Né bisogna credere che esista un'altra scienza più rispettabile di essa, giacché essa è la più divina e veneranda. Ed essa sola può avere tali prerogative per due aspetti. Infatti, una scienza è divina sia perché un Dio la possiede al massimo grado, sia perché essa stessa si occupa delle cose divine. Ma essa sola possiede entrambe queste prerogative, giacché da una parte tutti credono che Dio è una delle cause ed è un principio, dall'altra Dio solamente, o almeno in un sommo grado, può possedere una siffatta scienza. Tutte le altre, pertanto, sono materialmente più necessarie di essa, ma nessuna è migliore. È indispensabile comunque che l'acquisizione della sapienza sollevi, in un certo modo, ad un punto di vista che è contrario a quello in cui noi ci troviamo all'inizio delle nostre ricerche. Tutti, infatti, come dicevamo, cominciano col provar meraviglia che le cose siano in un determinato modo, come sono soliti comportarsi di fronte alle marionette o ai solstizi o all'incommensurabilità della diagonale. Difatti, a tutti quelli che non ne abbiano ancora indagato il motivo, sembra un prodigio il fatto che una certa lunghezza non possa essere misurata neppure dall'unità minima. Ma come avviene nei suddetti casi, allorché gli uomini li abbiano compresi, così anche noi dobbiamo approdare alla fine al punto di vista contrario, che è anche, secondo il proverbio, quello migliore. Difatti, per un uomo esperto di geometria, la maggior stranezza del mondo sarebbe la commensurabilità della diagonale rispetto al lato. Abbiamo pertanto detto quale sia la natura della scienza che stiamo ricercando e quale sia lo scopo cui devono mirare la nostra indagine e l'intero nostro lavoro. Paragrafo 3. Si apre l'indagine sulle cause nella filosofia preplatonica. È ovviamente indispensabile l'acquisizione scientifica delle cause originarie, giacché noi affermiamo di conoscere un oggetto particolare solo quando reputiamo di conoscerne la prima causa. E si parla di causa in quattro sensi, già che una di esse affermiamo che è la sostanza o essenza. Difatti, la ragion d'essere di un oggetto si riconduce in ultima istanza alla definizione, e la primaria ragion d'essere è causa e principio. Un'altra causa è la materia, ossia il sostrato. Una terza causa è ciò che dà inizio al movimento, e una quarta causa è quella che è opposta ad essa, ossia il fine e il bene. Infatti è questo il termine di ogni generazione e di ogni movimento. Nei trattati di fisica noi abbiamo condotto un sufficiente esame su questo argomento. Adesso invece rifacciamoci anche a quelli che prima di noi si sono rivolti alla ricerca della realtà e hanno filosofato intorno alla verità. Risulta con chiarezza, infatti, che anche essi parlano di certi principi e di certe cause. Se pertanto ci rifacciamo a loro, ne trarremo qualche aiuto per la nostra attuale indagine. Già che o verremo a scoprire qualche altro genere di cause, oppure confermeremo la nostra fiducia in quelle di cui ora abbiamo parlato. La maggior parte dei filosofi più antichi ritenne che fossero principi di tutte le cose soltanto quelli che rientrano in una specie materiale. Infatti essi affermano che è elemento e principio delle cose esistenti appunto ciò di cui tutte quante le cose esistenti sono costituite, e da cui primamente provengono, in cui alla fine vanno a corrompersi, anche perché la sostanza permane pur cangiando nelle sue affezioni. E per questo motivo essi sono del parere che nulla nasca e nulla perisca, già che secondo loro un tale principio naturale si conserva sempre, proprio come noi non parliamo, a proposito di Socrate, di una generazione assoluta quando egli diviene bello o musico, né di un'assoluta distruzione quando egli perde questi modi di essere, e ciò è dovuto al fatto che il soggetto, ossia la persona di Socrate, permane, e allo stesso modo né nasce né si distrugge in maniera assoluta alcun'altra cosa, giacché non può non esistere una certa sostanza naturale, tanto se si tratta di una sola quanto più di una, da cui le altre cose si generano, mentre essa stessa riesce a conservarsi. Non tutti però sono d'accordo sul numero e sulla natura specifica di tale principio, ma Talete, iniziatore di tale tipo di indagine filosofica, sostiene che esso è l'acqua, perciò egli asseriva che anche la terra galleggia sull'acqua. E forse questa sua opinione gli fu suggerita dall'osservazione che è umido ciò di cui ogni cosa si alimenta e che anche il caldo nasce dall'umidità e sopravvive per mezzo di essa. Del resto è principio di tutte le cose ciò da cui queste traggono l'origine. Né soltanto in base a ciò egli ha concepito una tale teoria, ma anche in base al fatto che hanno natura umida i semi di tutte le cose, e l'acqua è appunto il principio naturale delle cose umide. Anzi, ci sono alcuni i quali credono che anche gli antichissimi, che vissero molto prima dell'attuale generazione e che per primi teologizzarono, ebbero questa concezione della natura. Essi infatti rappresentarono oceano e teti come genitori del divenire e il giuramento degli dei come eseguito su un'acqua, alla quale essi stessi poeti diedero il nome di Stige, giacché ciò che è più vetusto e più rispettabile è un giuramento è la cosa la più degna di rispetto. Se però una siffatta opinione sulla natura sia davvero primitiva ed antica, non si può dire con certezza. Di Talete invece si dice che in tal senso egli ha parlato della prima causa. Né si potrebbe pretendere di collocare tra questi pensatori anche Ippone per lo scarso valore del suo pensiero. Anassimene e Diogene, invece, pongono l'aria come anteriore all'acqua e come principio fondamentale dei corpi semplici, mentre Ippaso di Metaponto ed Eraclito di Efeso pongono il fuoco ed Empedocle i quattro elementi, aggiungendo ai suddetti come quarto la terra, giacché questi sempre permangono e non sono generati, ma si accrescono o diminuiscono solo quantitativamente, secondo che essi si fondono per comporre un'unità, ovvero si separano da questa. Anassagora di Clazomene, invece, che è più anziano di Empedocle, ma che ha prodotto la sua opera dopo di lui, afferma che i principi sono infiniti. Infatti, egli dice che quasi tutte le cose formate da parti simili, come sono appunto l'acqua e il fuoco, nascono e periscono in questo modo, cioè soltanto per aggregazione e separazione, mentre sotto altri aspetti esse né nascono né periscono, ma permangono eterne. Risulterebbe pertanto dall'esame di queste teorie che sia causa soltanto quella che si chiama di specie materiale, Ma mentre quei filosofi andavano avanti in questo modo, la realtà stessa fece loro da guida e li costrinse ad approfondire l'indagine. Difatti, se è vero che ogni generazione e ogni distruzione derivano da un solo principio o anche da molti, perché mai accade questo e quale ne è la causa? È senza dubbio impossibile che il sostrato da solo provochi il suo stesso cangiamento. Voglio dire, ad esempio, che né il legno né il bronzo sono causa del loro stesso mutamento. Né il legno si mette a costruire un letto o il bronzo una statua, ma c'è qualche altra cosa che causa il cambiamento. E ricercare quest'altra cosa significa appunto portare l'indagine sull'altra causa, cioè su quella da cui, per così dire, prende inizio il movimento. Orbene, quelli che furono del tutto i primi a incamminarsi su questa via e a sostenere che il sostrato è uno solo, non si sentivano imbarazzati di fronte a queste difficoltà. Ma tuttavia alcuni tra i sostenitori di tale unità, quasi sconfitti da questo stesso loro modo di indagare, sostengono l'immobilità dell'uno e dell'intera natura, non solo relativamente alla degenerazione e alla corruzione, questa infatti era un'opinione ormai inveterata sulla quale tutti erano d'accordo, ma anche relativamente ad ogni altro cambiamento. Anzi, appunto quest'ultima cosa, il contrassegno particolare del loro pensiero. A nessuno, intanto, di quelli che sostengono che tutte le cose si identificano con l'uno, è accaduto di avere una siffatta concezione della causa, tranne che forse a Parmenide. E anche a lui solo in quanto egli pone non un'unica causa, ma in un certo senso ne pone due. Quelli invece che pongono più cause, quali ad esempio il caldo e il freddo, oppure il fuoco e la terra, hanno maggiori possibilità di proseguire un discorso filosofico, giacché si servono del fuoco in quanto lo considerano possessore di una natura motrice, e si servono dell'acqua o della terra o di altre simili cose in quanto le considerano come fornite di una natura contraria a quella del fuoco. Ma dopo tutti questi pensatori e dopo che furono addotti siffatti principi, poiché proprio questi ultimi si rivelarono insufficienti a spiegare la generazione naturale delle cose esistenti, ancora una volta i filosofi costretti, come abbiamo già rilevato, dalla stessa verità, si diedero alla ricerca di un altro principio. Difatti, è senza dubbio inverosimile che il fuoco e la terra, o qualche altro elemento di tal genere, sia causa del fatto che in parte le cose esistenti siano, in parte si generino in conformità col bene e col bello, ed è altresì impossibile che quei filosofi ci credano. Né d'altronde sarebbe stato ragionevole affidare un compito così importante al caso e alla fortuna. Ecco perché, quando qualcuno disse che, proprio come negli animali, così anche nella natura, la causa del mondo e di tutto quanto il suo ordinamento è un intelletto, egli apparve come una persona sobria rispetto ai più antichi che parlavano a casaccio. E noi sappiamo con certezza che Anassagora seguì questi ragionamenti, quantunque si dica che Ermotimo di Clazomene abbia parlato di una tale causa già prima di lui. Ma comunque le cose siano andate, i sostenitori di questa dottrina riuscirono non solo a porre come principio delle cose ciò che è la causa della loro bellezza, ma anche un principio che è in grado di assicurare alle cose il loro movimento. Paragrafo 4. Continua l'indagine. E si potrebbe, d'altra parte, supporre che verso una tale soluzione propendesse per primo Esiodo o anche qualche altro che considerò come principio tra le cose esistenti l'amore o il desiderio, come del resto ha fatto anche Parmenide. Anche quest'ultimo, infatti, rappresentando la generazione dell'universo, dice che Afrodite, in primo luogo, amor concepiva tra tutti gli dei, mentre Esiodo afferma: nacque tra tutti gli dei il caos primiero, e sol dopo Gaia dall'ampio petto, quindi l'amor che su tutti i nomi immortali risplende, volendo significare che negli esseri è indispensabile la presenza di una certa causa capace di mettere in moto e di raccogliere le cose. Si potrà decidere in appresso in che senso e a chi di costoro si debba assegnare la priorità di tali scoperte. Ma siccome nella natura si riscontra la presenza anche dei contrari delle cose buone, ossia la presenza non solo dell'ordine e della bellezza, ma anche del disordine e della bruttezza, anzi le cose cattive sono più numerose di quelle buone e le cose di scarso pregio sono più numerose di quelle belle. Un altro filosofo introdusse allora l'amicizia e la contesa, considerando rispettivamente ciascuna di queste come causa di ciascuna di quelle cose. E se, invero, si vuole seguire e apprezzare Empedocle, tenendo conto del suo ragionamento e non del suo linguaggio di balbettante, si troverà che l'amicizia è causa dei beni e la contesa dei mali. Però, se si dicesse che, in un certo senso, Empedocle ha sostenuto, ed ha sostenuto per primo, che il male e il bene sono principi, forse non si sbaglierebbe, dal momento che appunto il bene è causa di tutte le cose buone e il male di quelle cattive. Risulta pertanto a nostro avviso che questi filosofi finora si sono limitati a considerare soltanto due delle cause che noi abbiamo distinte nei nostri trattati sulla natura, ossia la materia e il principio del movimento. Quantunque ne abbiano parlato in maniera vaga e per nulla chiara, come nelle battaglie si comportano i soldati non esercitati. Anche questi ultimi, infatti, vanno scorazzando di qua e di là e vibrano sovente bei colpi, ma senza rendersene conto, allo stesso modo che quei filosofi non sembrano aver consapevolezza di quello che dicono, già che risulta che essi non sanno trarre profitto se non in piccola parte. Anassagora, infatti, usa l'intelletto come un meccanismo per la produzione dell'ordine universale, e quando non sa spiegarsi per qual motivo un tale ordine è necessario, allora tira in ballo l'intelletto, mentre nei rimanenti casi egli considera come causa degli accadimenti qualsiasi altra cosa tranne che l'intelletto. Ed Empedocle, più di Anassagora, fa uso delle cause, ma neanche lui in modo sufficiente ne riesce a mettersi d'accordo con se stesso. Non poche volte, pertanto, secondo lui, l'amicizia disgrega e la contesa è causa di aggregazione. Difatti, quando l'universo viene ridotto ai suoi elementi differenziali per opera della contesa, allora si riscontra una riduzione all'unità del fuoco e di ciascuno degli altri elementi. Quando poi questi vanno ricomporsi in un'unità per opera dell'amicizia, allora inevitabilmente le particelle di ciascun elemento vengono di nuovo separate tra loro. Empedocle, comunque, introducendo questa causa, seppe operare, a differenza dei suoi predecessori, una distinzione col porre non un unico principio del movimento, bensì due che fossero anche contrari tra loro. E, oltre a ciò, egli fu il primo ad affermare che sono quattro i cosiddetti elementi di specie materiale. Quantunque egli non si serva di tutti e quattro, ma li riduca in realtà solo a due, ossia da una parte si serve solamente del fuoco e dall'altra degli opposti di questo, terra, aria e acqua, come se costituissero un'unica natura, e ciò si può evincere dall'esame dei suoi versi. A nostro avviso Empedocle ha avuto questa concezione circa i principi e del loro numero. Leucippo invece e il suo compagno Democrito affermano che sono elementi il pieno e il vuoto, considerando l'uno come essere e l'altro come non essere, identificando il pieno e il solido con l'essere e il vuoto con non essere. Perciò essi sostengono anche che l'essere non esiste affatto più del non essere, già che il vuoto è reale come il corpo. E secondo loro queste sono le cause della realtà, e causa in senso materiale. E come i sostenitori dell'unità della sostanza fondamentale fanno derivare le altre cose dalle affezioni di questa, ponendo come principi di tali affezioni il raro e il denso, allo stesso modo anche costoro sostengono che le differenze degli atomi sono cause delle altre cose. Essi riducono tuttavia queste differenze a tre, ossia la figura, all'ordine e alla posizione, già che affermano che l'oggetto si distingue per proporzione, per contatto e per direzione. Ma tra queste tre cose la proporzione si identifica con la figura, il contatto con l'ordine, la direzione con la posizione. Difatti A differisce da N per figura, AN da NA per ordine, Z da N per posizione. Ma per quel che concerne il movimento, ossia quale sia la sua origine, quale sia il modo in cui esso è presente nella realtà delle cose, anche questi filosofi, pressappoco come gli altri, hanno lasciato correre per negligenza. Sono questi i limiti a cui, a parer nostro, sono pervenute le ricerche dei nostri predecessori in merito alle due cause. Paragrafo 5. Si conclude l'indagine sulla dottrina delle cause nei pre-platonici. Nella stessa epoca di costoro, anzi ancor prima di loro, i cosiddetti pitagorici si dedicarono per primi alle scienze matematiche, facendole progredire. E poiché trovarono in esse il proprio nutrimento, furono del parere che i principi di queste si identificassero con i principi di tutte le cose. I numeri occupano naturalmente il primo posto tra tali principi, e i pitagorici credevano di scorgere in quelli, più che nel fuoco, nella terra o nell'acqua, un gran numero di somiglianze con le cose che esistono e sono generate, e asserivano che una determinata proprietà dei numeri si identifica con la giustizia, un'altra con l'anima e con l'intelletto, un'altra ancora col tempo critico, e che lo stesso vale presso a poco per ciascuna delle altre proprietà numeriche. E individuavano inoltre nei numeri le proprietà e i rapporti delle armonie musicali. E insomma, pareva loro evidente che tutte le altre cose modellassero sui numeri la loro intera natura, e che i numeri fossero l'essenza primordiale di tutto l'universo fisico. E per tutte queste ragioni, essi concepirono gli elementi dei numeri come elementi di tutta la realtà, e l'intero cielo come armonia in numero. E quante concordanze con le proprietà e le parti del cielo e con l'intero ordine universale essi riscontravano nei numeri e nelle armonie, le raccoglievano e le adattavano al loro sistema. E anche se in qualche parte ne veniva fuori qualche difetto, essi con facilità si mettevano a fare addizioni allo scopo di rendere pienamente concreta la loro dottrina. Così ad esempio, poiché la decade sembra perfetta e capace di abbracciare tutta quanta la natura dei numeri, essi asseriscono che sono 10 anche gli astri che si spostano sotto la volta celeste. Ma, poiché quelli visibili sono soltanto 9, per questa ragione essi ne crearono un decimo, l'antiterra. Su tali questioni noi abbiamo condotto un esame più dettagliato in altra sede. Tuttavia ne stiamo parlando anche qui per il solo scopo di apprendere anche da questi filosofi quali cause essi pongano e in che modo queste coincidano con quelle da noi elencate. Orbene, è evidente anche che costoro concepiscono il numero come principio, considerandolo sia come materia delle cose esistenti, sia come costitutivo delle affezioni degli stati di queste. Ed elementi del numero sono, secondo loro, il pari e il dispari, e di questi il primo è infinito, il secondo è finito, e l'uno risulta da tutti e due questi elementi, giacché esso è pari e insieme dispari. E il numero deriva dall'uno, e l'intero cielo, come già dicevamo, si identifica con i numeri. Altri, che fanno parte della stessa scuola, dicono che i principi sono 10 e li elencano per coppie di elementi, ossia limite e limitato, dispari e pari, unità e pluralità, destro e sinistro, maschio e femmina, quieto e mosso, retto e curvo, luce e oscurità, buono e cattivo, quadro e oblungo. Proprio questa pare che sia stata la dottrina anche di Alcmeone di Crotone, e o questi ha desunto dai pitagorici tale modo di ragionare, oppure i pitagorici l'hanno desunto da lui, giacché Alcmeone era nell'età giovanile quando Pitagora era ormai vecchio, e professò le stesse teorie dei pitagorici. E gli dice infatti che la maggior parte delle cose umane procede per coppie, ma non parla delle coppie di contrari, quali furono determinate accuratamente dai pitagorici, bensì di coppie assunte a caso, ad esempio, di bianco e nero, di dolce e amaro, di buono e cattivo, di grande e piccolo. Così dunque Alcmeone buttò fuori, senza alcun discernimento, le sue teorie circa le altre coppie dei contrari, mentre i pitagorici rivelarono il numero e la natura delle coppie dei contrari. E pertanto possiamo desumere tanto da lui quanto dai pitagorici almeno una cosa, ossia che i contrari sono principi delle cose esistenti. Ma possiamo desumere il numero e la natura di tali principi soltanto dai pitagorici. Il modo però mediante cui questi loro principi possono essere ricondotti alle cause indicate da noi non è stato articolato da loro con chiarezza, ma pare che essi dispongano tali elementi come se questi fossero di specie materiale, poiché, secondo le loro affermazioni, la sostanza risulta composta e plasmata proprio in base a questi elementi, nel senso che essi le sono immanenti. Da questa nostra rassegna si può sufficientemente capire il pensiero di quegli antichi che sostenevano la pluralità degli elementi della natura. Ma ci sono anche alcuni i quali hanno concepito l'intero universo come una sola naturale entità, quantunque non tutti abbiano saputo fare allo stesso modo una buona esposizione o abbiano conservato il rispetto della natura. Alla nostra attuale indagine sulle cause non si addice comunque una discussione intorno a costoro. Essi infatti, pur presupponendo come alcuni naturalisti un principio unico, non ammettono allo stesso modo la generazione dell'essere da tale unità materialmente intesa, ma si esprimono in un modo affatto diverso, cioè che quei naturalisti, almeno quando trattano della generazione dell'universo, fanno parola anche di un movimento, mentre costoro sostengono che l'universo è immobile. Ciò nonostante, però, non manca qualche punto che sia pertinente alla nostra attuale indagine. Pare infatti che Parmenide intenda riferirsi all'unità formale, mentre Melisso a quella materiale. E anche per questo motivo l'uno afferma che essa è finita, l'altro che è infinita. Xenofane, invece, che fu il primo sostenitore dell'unità, si dice infatti che Parmenide sia stato suo discepolo, non fece alcuna precisazione, né sembra che egli abbia avuto a che fare con la natura di nessuna di queste due cause, ma, mirando all'universo nella sua interezza, sostiene che l'uno si identifica con la divinità. Come abbiamo già detto, questi pensatori non devono essere presi in esame nella nostra attuale indagine, anzi, due, Xenofane e Melisso, devono essere del tutto scartati, perché sono un po' troppo rozzi. Parmenide, invece, sembra che in qualche luogo parli con maggiore perspicacia, già che egli, reputando che al di fuori dell'essere il non essere non esiste affatto, è portato necessariamente a credere che l'essere è uno e che non c'è niente altro al di fuori di esso. Su tale argomento abbiamo discusso più dettagliatamente nei nostri trattati sulla natura. Ma poi, costretto a rispettare la realtà fenomenica e ammettendo che l'essere è uno secondo la definizione, ma molteplice secondo la sensazione, viene a porre anche lui a sua volta due cause, due principi, cioè il caldo e il freddo, o in altre parole il fuoco e la terra, e fra questi gli inquadra il caldo nell'essere e il freddo nel non essere. Ecco dunque in conclusione quello che abbiamo desunto dalle nostre precedenti considerazioni e dalle nostre riflessioni sui filosofi di cui già abbiamo sommariamente trattato. Secondo i più antichi, il principio è corporeo, già che l'acqua, il fuoco e le altre cose di tal genere sono corpi, e secondo alcuni c'è un solo principio, secondo altri ce ne sono di più, ma in ogni caso si tratta di principi corporei, già che tanto gli uni che gli altri li pongono in una specie materiale. D'altra parte, alcuni filosofi, oltre a porre questa causa, pongono anche quella che dà inizio al movimento, e quest'ultima è una sola, secondo alcuni, duplice secondo altri. Fino agli italici esclusi, gli altri filosofi si sono espressi in modo alquanto sbrigativo su questi principi. Essi, tuttavia, come abbiamo notato, sono riusciti a servirsi di due cause, e una di queste, ossia quella che dà origine al movimento, da alcuni è stata concepita come unica, da altri come duplice. I pitagorici, invece, se da una parte hanno parlato allo stesso modo di due principi, hanno fatto anche una precisazione, che del resto è una loro peculiarità. Secondo loro, infatti, il finito e l'infinito non sono entità separate, come il fuoco e la terra o qualche altra cosa siffatta, ma lo stesso infinito e lo stesso uno sono sostanza di quelle cose di cui essi fanno da predicati, ed è questo anche il motivo per cui la sostanza di tutte le cose sarebbe numero. Su questi argomenti essi si sono espressi in tal modo e inoltre hanno intrapreso anche a parlare dell'essenza e a darne una definizione. Ma in questo loro tentativo hanno proceduto in modo troppo semplicistico. Essi infatti definivano in maniera superficiale e credevano che la sostanza di un oggetto non fosse altro che il primo numero al quale si applicasse la definizione da loro suggerita, e ciò equivarrebbe a credere che il doppio e il due si identifichino per il semplice fatto che il doppio è la prima proprietà che si attribuisce al due. Ma non v'è dubbio che l'essenza del doppio e quella del due sono diverse. Altrimenti anche l'uno si identificherebbe col molteplice. Conseguenza questa che anch'essi solevano trarre. Questo è dunque tutto quello che possiamo desumere dai filosofi più antichi e da quelli posteriori. Paragrafo 6. La dottrina platonica delle cause. Dopo le teorie filosofiche di cui abbiamo parlato, è venuta ad affermarsi la dottrina di Platone, la quale per molti aspetti si ricollega alle dottrine pitagoriche, ma possiede anche una propria originalità che la separa dalla filosofia degli italici. Platone, infatti, da giovane divenne ben presto seguace di Cratilo e delle dottrine eraclitee, secondo le quali tutte quante le cose sensibili scorrono perpetuamente e di esse non c'è scienza. E continuò anche in appresso a pensarla in questo modo. E quando Socrate mise completamente da parte l'indagine sulla natura e si diede a studiare con impegno il mondo dell'etica e a cercare comunque in questo l'universale e a fermare per primo la sua attenzione sulle definizioni, Platone ne accolse il pensiero, ma ritenne che una tale questione va posta per altre cose e non per quelle sensibili, appunto perché è impossibile che la definizione comune si riscontri in alcuna delle cose sensibili, le quali in verità sono in perpetuo cambiamento. Pertanto, egli non solo diede a tali entità l'appellativo di idee, ma sostenne anche che le cose sensibili sono al di fuori di queste e che tutte queste prendono il loro nome in virtù della loro relazione con esse, giacché solo mediante una partecipazione le cose particolari nella loro pluralità hanno lo stesso nome specifico. Platone ha introdotto come cosa nuova soltanto il termine partecipazione, giacché mentre i pitagorici asseriscono che le cose esistono per imitazione dei numeri, egli dice che esistono per partecipazione, limitandosi a cambiare solo il nome. Ma di quale natura fosse mai l'imitazione o la partecipazione delle forme ideali è una questione che essi hanno lasciata insoluta. Platone aggiunge ancora che, oltre agli oggetti sensibili e le forme ideali, esistono come qualcosa di intermedio le entità matematiche, le quali differiscono dalle cose sensibili perché sono eterne ed immobili, e differiscono dalle forme ideali perché c'è una pluralità di enti matematici che si somigliano, mentre ogni forma ideale è di per sé unica, individuale e singolare. E poiché le idee sono causa delle altre cose, egli fu del parere che gli elementi di quelle fossero elementi di tutta la realtà. Quindi, secondo lui, sono principi materiali il grande e il piccolo, ed è invece il principio sostanziale l'uno, giacché dal grande e dal piccolo, per partecipazione dell'uno, deriverebbero l'esistenza delle specie ideali, in quanto esse sono i numeri. Ma tuttavia egli era, in linea di massima, d'accordo con i pitagorici, almeno nell'identificare l'uno con la sostanza e nel sostenere che nessun altro ente assume l'uno come predicato. Ed egli è ancora d'accordo con loro nel sostenere che i numeri sono cause della sostanza per le altre cose. Ma l'originalità di Platone risiede nel fatto che egli concepì una diade al posto dell'infinito che i pitagorici concepivano come uno, e nel far derivare l'infinito dal grande e dal piccolo. E oltre a ciò, egli afferma che i numeri esistono al di fuori degli oggetti sensibili, mentre i pitagorici sostengono che gli stessi oggetti sono numeri, e non pongono gli enti matematici come qualcosa di intermedio tra forme e oggetti sensibili. La concezione della trascendenza dell'uno e dei numeri rispetto alle cose, concezione diversa da quella dei pitagorici, e l'introduzione della dottrina delle idee, furono il risultato delle sue ricerche di carattere logico, giacché i più antichi non avevano dimestichezza con la dialettica. D'altra parte, la sua concezione di una diade intesa come il secondo principio naturale è dovuta al fatto che i numeri, eccezion fatta per quelli primi, si generano agevolmente da essa come da un materiale plastico. Ma in realtà accade proprio il contrario, giacché una siffatta teoria è logicamente infondata. I platonici, infatti, fanno nascere dalla materia una molteplicità di cose, quantunque, a parer loro, la forma ideale generi una volta sola, mentre in realtà risulta con evidenza che da una sola materia si genera una sola tavola, e chi invece vi applica la forma, pur essendo egli uno solo, ne può produrre una moltitudine. La cosa sta del resto allo stesso modo per il maschio in relazione alla femmina. Questa, infatti, viene fecondata mediante un solo accoppiamento, mentre un solo maschio può fecondare molte femmine. Ma abbiamo inteso fornire semplicemente delle immagini per spiegare quei principi. Queste, pertanto, sono le precisazioni fatte da Platone in merito ai principi su cui verte la nostra indagine. Ma da quanto abbiamo detto, risulta con evidenza che egli si è servito solamente di due cause, ossia di quella formale e di quella materiale. Infatti, le specie ideali sono cause dell'essenza per le altre cose, e l'uno è causa dell'essenza per le specie ideali. E nel determinare quale sia il sostrato materiale secondo cui le specie ideali fanno da predicati per gli oggetti sensibili, e l'uno fa da predicato nelle specie stesse, egli ha affermato che un tale sostrato è una diade, ossia il grande e il piccolo, ed ha attribuito inoltre separatamente a ciascuno di quei due elementi la causa del bene e del male, proprio come a parer nostro avevano tentato di sostenere alcuni fra i filosofi precedenti, quali ad esempio Empedocle ed Anassagora. Paragrafo 7. Quadro riassuntivo della dottrina delle cause nei filosofi esaminati. Abbiamo fatto così una concisa e sommaria rassegna dei filosofi che hanno trattato dei principi e della verità. E abbiamo esaminato anche il modo in cui essi ne hanno trattato. Ma in ogni caso, noi abbiamo assodato questo, che nessuno di quelli che hanno trattato del principio e della causa ne ha introdotta alcuna oltre quelle da noi precisate nei trattati di fisica. Anzi, risulta che tutti, per un qualche aspetto, le hanno sfiorate, anche se in maniera oscura. Alcuni, infatti, parlano del principio intendendolo come materia, tanto se ne suppongono uno solo, quanto se ne suppongono più di uno, e tanto se lo pongono come corpo, quanto se lo pongono come incorporeo, come ad esempio Platone parla del grande e del piccolo, di Talici dell'infinito, Empedocle del fuoco, della terra, dell'acqua e dell'aria, Anassagora dell'infinità delle particelle simili. Tutti costoro, comunque, si sono attenuti a una siffatta causa, e dentro questi limiti sono rimasti anche quanti hanno parlato o dell'aria o del fuoco o dell'acqua o anche di una qualche cosa che sia più denso del fuoco o più leggero dell'aria, giacché non sono mancati alcuni che hanno identificato questo col primo elemento. Orbene, costoro hanno tenuto presente soltanto la causa materiale, mentre altri hanno parlato anche di quella da cui trae origine il movimento, e tali sono ad esempio quelli che pongono come principio l'amicizia e la contesa o l'intelletto o l'amore. Ma per quanto concerne l'essenza e la sostanza, nessuno di costoro ha saputo offrire spiegazioni chiare, mentre più di tutti vi si sono avvicinati i sostenitori delle idee. Costoro infatti non concepiscono le specie ideali come materia per le cose sensibili, né l'uno come materia per le specie ideali, né fanno scaturire di là il principio del movimento, poiché, secondo le loro asserzioni, esse sono piuttosto cause di mobilità e di permanenza nella quiete, ma presentano le idee come l'essenza per ciascuna altra cosa, e l'uno come l'essenza per le idee stesse. Per quanto invece concerne il fine delle azioni, dei cambiamenti e dei movimenti, essi ne parlano in un certo qual modo come di una causa, ma non ne parlano in modo determinato, cioè nel modo che è quello voluto dalla stessa natura. Infatti, quelli che parlano dell'intelletto o dell'amicizia considerano queste cose come un bene, ma non si spingono affatto ad affermare che qualcuno degli enti esiste o è generato avendo il bene come fine, bensì solo in quanto i movimenti traggono origine da esse, e allo stesso modo anche quanti asseriscono che l'uno o l'essere si identifica con siffatto principio naturale affermano indubbiamente che esso è causa della sostanza, ma non già che esso è il fine per il quale le cose o esistono o sono generate. E di conseguenza accade loro di dire e di non dire che il bene è una causa, giacché essi ne parlano in senso non assoluto ma accidentale. Sembra pertanto che anche tutti questi pensatori, con la loro impossibilità di accostarsi a qualche altro tipo di causa, attestino a nostro favore che la distinzione operata da noi circa la natura e il numero delle cause è quella giusta. Ma oltre a ciò risulta anche con chiarezza che l'indagine sui principi deve essere eseguita interamente secondo questi criteri, o almeno in un modo che si avvicini ad essi. Il linguaggio, invece, con cui ciascuno di questi pensatori si è espresso e l'attitudine che ciascuno di essi ha mostrato nel tentativo di comprendere i principi saranno messi in rilievo dall'esame che ora faremo delle difficoltà che possono affiorare in tale settore. Paragrafo 8. Critica delle principali filosofie preplatoniche. Quelli che sostengono l'unità dell'universo e che pongono come sua materia un unico principio naturale, il quale sia peraltro corporeo ed esteso, cadono ovviamente in una serie di errori. Essi infatti ammettono soltanto l'esistenza degli elementi corporei e negano quella di elementi incorporei, quantunque esistano anche questi ultimi. Per quanto poi concerne la generazione e la corruzione, essi cercano di indicarne le cause e trattano anche della natura di tutte le cose, ma nello stesso tempo sopprimono la causa del movimento. Essi sbagliano inoltre perché non pongono la sostanza e quindi neppure l'essenza come principio di alcuna cosa, e oltre a ciò, perché con leggerezza identificano il principio con qualsivoglia dei corpi semplici che non sia la terra, senza indagare sul modo in cui vengono reciprocamente a prodursi tali corpi, ossia il fuoco, l'acqua, la terra e l'aria. Alcuni di essi, infatti, si producono reciprocamente per concrezione, altri per discrezione. E questa differenza è della massima importanza perché si possa sostenere la priorità o la posteriorità di tali elementi. Per un certo aspetto potrebbe sembrare che il corpo più elementare di tutti sia quello da cui in primo luogo si generano tutti gli altri corpi, per concrezione, ed un tale corpo dovrebbe essere quello che tra gli altri è composto di parti minime e che è il più sottile. Perciò i filosofi che pongono come principio il fuoco sono quelli che possono maggiormente condividere un tal modo di pensare, anche se ciascuno degli altri filosofi ammetta che tale debba essere la natura del primo elemento corporeo. Però nessuno dei monisti ha reputato che la terra sia un elemento, ovviamente perché questa è composta di parti grandi, ma ciascuno degli altri tre elementi ha trovato di volta in volta un sostenitore, già che alcuni identificano l'elemento primordiale col fuoco, altri con l'acqua, altri con l'aria. Né vi è di certo alcun altro motivo che impedisca loro di parlare anche della terra, come invece ne parla la comune opinione. Infatti, la gente dice che tutto è terra e anche Esiodo asserisce che prima fra i corpi si genera la terra. Così, vecchia e popolare, è una tale opinione. In base a questo ragionamento, pertanto, se si parla di qualche altro elemento che non sia il fuoco, o se si pone questo elemento come più denso dell'aria e più sottile dell'acqua, si cade in errore. D'altra parte, però, se è vero che ciò che è posteriore per generazione è anteriore per natura, e se ciò che è mescolato e composto è posteriore per generazione, allora è vero il contrario delle precedenti teorie, e l'acqua è anteriore all'aria e la terra all'acqua. Bastino queste considerazioni a proposito di quei filosofi che pongono una sola causa nel senso da noi ricordato. Ma le medesime considerazioni si possono fare anche nel caso che si pongano più cause, come ad esempio fa Empedocle, il quale identifica la materia con i quattro corpi. E anche a lui siamo costretti a fare delle obiezioni, che in parte sono identiche a quelle da noi fatte agli altri, e in parte sono riservate esclusivamente a lui. Difatti, noi osserviamo che certe cose nascono l'una dall'altra in un modo secondo cui la stessa entità corporea non permane sempre fuoco o terra. Di questo abbiamo discusso nei nostri trattati sulla natura. E poi, per quanto concerne la causa del movimento delle cose, se cioè ne dobbiamo porre una oppure due, bisogna ritenere che egli non ne abbia parlato affatto in maniera corretta e conforme alle sue stesse premesse. Infine, in linea generale, se si accettano affermazioni del genere di quelle empedoclee, viene inevitabilmente soppressa l'alterazione, già che un corpo non può divenire né freddo da caldo né caldo da freddo. Difatti, vi dovrebbe essere un sostrato che possa subire l'azione degli stessi contrari, e vi dovrebbe essere un unico elemento naturale che diventa fuoco e acqua. Ma questo Empedocle non lo ammette. E per quanto concerne Anassagora, se si pensasse che egli parla di due elementi, si avrebbe un'opinione che sarebbe ben conforme a un ragionamento che egli non riuscì ad articolare, ma che necessariamente avrebbe fatto se qualcuno l'avesse guidato verso tale direzione. In realtà è assurdo asserire che in principio tutte le cose erano mescolate, e ciò per varie ragioni, ma specialmente perché ne deriverebbe la necessità che le cose stesse esistessero precedentemente come non mescolate, sia perché non è conforme a natura che una cosa qualsiasi si mescoli fortuitamente con una cosa qualsiasi, sia perché inoltre le affezioni e gli attributi avrebbero un'esistenza separata da quella delle sostanze, giacché mescolanza e separazione vengono ad esercitarsi sulle medesime cose. Tuttavia, se si seguisse Anassagora dando un più articolato svolgimento a ciò che egli vuol dire, forse le sue parole risulterebbero più ricche di significato per noi moderni. Quando infatti non esisteva alcuna differenziazione, non si poteva ovviamente conferire a quella sostanza nessun vero e proprio predicato. Voglio dire ad esempio che essa non era né bianca né nera o grigia o di altro colore, ma era necessariamente incolore, altrimenti qualcuno di tali colori sarebbe stato una sua particolare proprietà. E similmente, per questa stessa ragione, essa era insapore, anzi non aveva nessun'altra di tale proprietà, cioè che essa non poteva avere né qualità né quantità né alcuna determinazione. Altrimenti, infatti, sarebbe stata sua proprietà qualche forma particolare di sopra ricordata, ma ciò era impossibile, già che tutte quante erano mescolate, e le forme sarebbero già state differenziate, mentre al contrario egli sostiene che tutte le cose erano mescolate tranne l'intelletto, e che questo soltanto era puro e non mescolato. Da ciò risulta che, secondo lui, i principi sono due, ossia l'uno, già che appunto questo è semplice e non mescolato, e l'altro, cioè quello che noi identifichiamo con l'indeterminato prima che questo assuma una determinazione o partecipi in una qualche forma. E di conseguenza il suo ragionamento non è né corretto né chiaro, anche se esso è pressappoco quello di filosofi posteriori e si accosti notevolmente a teorie molto quotate ai nostri giorni. Ma questi filosofi trattano con familiarità soltanto il problema della generazione della corruzione del movimento, già che la loro ricerca si limita quasi esclusivamente ai principi e alle cause di un tale aspetto della realtà. Quanto poi a quei filosofi che hanno esteso la loro indagine su tutta quanta la realtà e che operano una distinzione tra enti sensibili ed enti non sensibili, è ovvio che essi soffermano la loro attenzione su tutti e due questi generi di cose. Perciò, al fine di proseguire lo studio dei problemi che ora ci stanno dinanzi, è il caso di trattenersi più a lungo con costoro e di esaminare quanto di buono o di non buono c'è nelle loro teorie. Orbene, i cosiddetti pitagorici fanno uso di principi e di elementi che sono ancora più assurdi di quelli posti dai naturalisti. E il motivo di tale assurdità sta nel fatto che essi non li hanno assunti dal mondo sensibile, già che gli enti matematici, tranne quelli che hanno a che fare con l'astronomia, sono privi di movimento. Ma non di meno tutte le loro discussioni e tutto il loro impegno hanno per oggetto la natura. Essi infatti parlano della generazione del cielo e si occupano di ciò che accade nelle parti, nelle affezioni, nelle attività di esso, e verso tale direzione essi impiegano i principi e le cause, come se fossero d'accordo con gli altri naturalisti nel sostenere che l'essere è solo in quanto è sensibile e che il cosiddetto cielo lo contiene. D'altra parte però, come noi dicevamo, le cause e i principi di cui essi parlano permettono loro di ascendere anche verso enti più elevati, anzi a quest'ultimi essi si rifanno piuttosto che alle teorie fisiche. Essi tuttavia non dicono nulla nel modo in cui possa prodursi il movimento una volta che hanno posto come sostrato il limite e l'illimitato, il dispari e il pari, né chiariscono come mai sia possibile che senza moto e cambiamento si verifichino la generazione e la corruzione, o le attività dei corpi che si spostano attraverso il cielo. Inoltre, anche se si concede loro, anzi si dà per dimostrato, che una grandezza è composta da questi fattori, com'è mai possibile, tuttavia, che alcuni corpi siano leggeri ed altri abbiano un peso? Giacché, in base alle loro premesse e alle loro asserzioni, questi filosofi dovrebbero fornirci spiegazioni sui corpi matematici non più che su quelli sensibili. Ed è questo il motivo per cui non hanno parlato di fuoco o di terra o degli altri simili principi corporei, perché essi, a parer nostro, non avevano nulla di particolare da dire intorno agli enti sensibili. E ancora, come mai si potrebbe pensare che le affezioni del numero e lo stesso numero siano causa di tutto ciò che esiste e si genera al di sotto del cielo, e non solo da principio, ma anche ora, e che d'altra parte non esista alcun altro numero al di fuori di quello da cui è composto il mondo? E quando essi pongono, ad esempio, in una certa parte dell'universo l'opinione e il tempo critico, e un po' più su o più giù l'ingiustizia o la decisione o la mescolanza, e quando pretendono altresì di dimostrare che ciascuna di queste cose si identifica con un numero e che in questo luogo determinato vi è di già una pluralità di grandezze composte da numeri, proprio perché certe determinate proprietà numeriche corrispondono a certe determinate zone del mondo, allora noi ci domandiamo, questo determinato numero, che bisognerebbe considerare identico con ciascuna di tali determinazioni, è lo stesso numero che è nel mondo sensibile, oppure un altro al di fuori di esso? Platone afferma che è un altro. Sebbene, infatti, ritenga che le grandezze materiali e le loro cause siano numeri, egli intende precisare che i numeri intelligibili sono cause, mentre gli altri sono solamente sensibili. Paragrafo 9. Critica dell'idealismo. Accantoniamo per un momento i pitagorici, basta infatti toccarli solo su questi pochi punti, e veniamo invece a parlare degli idealisti. Anzitutto, costoro, nel loro tentativo di trovare le cause degli enti sensibili, hanno messo in mezzo altri enti in numero uguale a quelli sensibili. comportandosi come chi, volendo far di conto, è del parere di non potervi riuscire quando le cose sono poche, e si mette poi a contare dopo averle accresciute di numero. Infatti, il numero delle idee è pressappoco uguale e comunque non minore rispetto a quello degli oggetti sensibili, le cui cause essi hanno ricercate inoltrandosi verso le idee, giacché secondo loro ad ogni essere particolare corrisponde un qualcosa che è ad esso omonimo e che è separato dalle sostanze, e a loro parere, per quanto concerne le altre cose, siano esse sensibili o eterne, esiste un'unità che trascende la molteplicità. Inoltre, nessuna delle argomentazioni che noi adduciamo per dimostrare l'esistenza delle idee trova riscontro nell'evidenza. Difatti, da alcune argomentazioni non consegue una conclusione logica necessaria, da altre vengono fuori idee di cose delle quali, secondo le nostre teorie, non ci sono affatto idee. Insomma, in base agli argomenti che derivano dalle scienze, dovranno esserci idee di tutte quelle cose di cui esistono scienze, e in base all'argomento dell'unità che trascende la molteplicità, ci saranno idee anche della negazione. E infine, in base all'argomento secondo cui un oggetto corrotto è presente nel nostro pensiero, esisteranno idee anche delle cose corruttibili, poiché di tali cose esiste una certa rappresentazione. Inoltre, persino le argomentazioni meno inesatte inducono a porre, alcune, l'esistenza di idee della relazione, di cui noi neghiamo che esista un genere in sé. Altre parlano del terzo uomo. Insomma, le argomentazioni fatte per provare l'esistenza delle forme sopprimono proprio quelle cose alla cui esistenza noi stessi, sostenitori delle forme, teniamo più che all'esistenza delle idee. Difatti, da tali argomentazioni vengono a risultare la priorità dell'esistenza non della diade, ma del numero, e la priorità dell'esistenza non dell'assoluto, ma del relativo, e spuntano fuori tutte quante le altre contraddizioni nelle quali vengono a cadere i seguaci delle dottrine idealistiche contro i loro stessi principi. Inoltre, se si tiene conto delle premesse da cui noi partiamo per affermare l'esistenza delle idee, ci dovranno essere forme ideali non solo delle sostanze, ma anche di molte altre cose, giacché è uno il pensiero che contempla non solo le sostanze, ma anche le altre cose, ed esistono scienze che hanno per oggetto non solo sostanze, ma anche altre cose. E da tutto questo derivano innumerevoli altre conseguenze di tal genere. D'altra parte, qualora noi teniamo conto di una necessità logica e delle stesse dottrine concernenti le forme, se queste ultime sono partecipabili, esistono necessariamente soltanto idee delle sostanze. Esse infatti non sono partecipate in via accidentale, ma la partecipazione di ciascuna idea si attua necessariamente in quanto l'idea stessa non sia un predicato in relazione a un soggetto. Intendo dire, ad esempio, che se un certo oggetto partecipa del doppio in sé, esso partecipa anche dell'eterno, ma solo per accidente, perché è accidentale al doppio in sé l'essere eterno. E di conseguenza le idee sono sostanza. Ma d'altra parte non c'è che uno stesso nome il quale sta a significare la sostanza, tanto in questo mondo sensibile quanto in quello ideale. Altrimenti, quale significato avrebbe l'affermare che oltre gli oggetti sensibili esiste qualcosa, ossia l'uno che trascende il molteplice? E se la forma delle idee e quella delle cose che di queste partecipano è la medesima, vi sarà qualcosa di comune tra le idee e le cose? Perché mai infatti si dovrebbero porre l'unità e l'identità della diade quando ci si riferisca alle diadi corruttibili e a quelle matematiche che sono molteplici ma eterne, piuttosto che quando ci si riferisca alla diade in sé e a quella particolare? E se invece non c'è l'identità della forma, allora tra le idee e le cose ci sarà solo omonimia, e sarà presso a poco come se si chiamasse uomo tanto caglia quanto un pezzo di legno, senza rilevare tra loro alcuna proprietà comune. Ma il maggiore imbarazzo si proverebbe nel caso che ci si chiedesse quali contributo mai arrechino le forme ideali agli enti sensibili, tanto a quelli eterni quanto a quelli che nascono e periscono, dal momento che esse non sono affatto cause né di un loro movimento né di alcun loro cambiamento. Ma esse non arrecano nessun ausilio né alla conoscenza scientifica delle altre cose, esse infatti non sono la sostanza di queste, cioè che in tal caso si troverebbero in loro, né all'esistenza stessa di tale cose, perché non sono immanenti alle cose che di esse partecipano. E se, d'altra parte, esse fossero immanenti, potrebbe forse sembrare che esse siano causa, nel senso che la mescolanza del bianco è causa di bianchezza. Ma anche questo ragionamento, che fu sostenuto prima da Anassagore e poi da Eudosso e da alcuni altri, può essere agevolmente rimosso, giacché ci vuole ben poco a raccogliere un gran numero di obiezioni irrefutabili contro siffatta teoria. Né, d'altronde, è possibile dire che le altre cose derivino dalle forme ideali, in qualsivoglia modo venga di consueto usata tale espressione. Affermare poi che esse sono modelli e che le altre cose partecipano di esse significa parlare a vuoto e uscirsene con metafore poetiche. C'è forse una sola cosa che compie un qualche atto mirando le idee? È pur possibile che esista e si generi una qualsivoglia cosa simile ad un'altra, ma senza avere tuttavia quest'altra come immagine da imitare, proprio come può nascere un uomo somigliantissimo a Socrate, tanto se Socrate esiste quanto se non esiste. E accadrebbe lo stesso anche nel caso che esistesse un Socrate eterno. Ma vi sarebbe pure una molteplicità di modelli di una medesima cosa, e però anche una molteplicità di idee. Ad esempio, nel caso dell'uomo, vi sarebbe l'animale e il bipede, oltre che, nello stesso tempo, l'uomo in sé. Oltre a ciò, le idee sarebbero modelli non solo delle cose sensibili, ma anche di sé medesime, e tale sarebbe, ad esempio, il genere in quanto genere delle specie. In tal modo il modello verrà a identificarsi con l'immagine che lo riproduce. E ancora, sembrerà impossibile che abbiano un'esistenza separata la sostanza e l'oggetto di cui essa è sostanza. E però, come mai le idee potrebbero essere separate dalle cose proprio quando esse ne sono la sostanza? Appunto questo si afferma nel Fedone, che cioè le forme ideali sono cause tanto dell'essere quanto del divenire. Eppure, anche a voler ammettere l'esistenza delle forme ideali, le cose che di queste partecipano non vengono tuttavia alla luce qualora non intervenga una causa motrice, mentre, al contrario, sono prodotte molte altre cose, quali ad esempio una casa o un anello, di cui noi neghiamo che esistano le specie ideali, sicché è ovviamente ammissibile che anche le altre cose esistano e vengono alla luce mediante cause simili a quelle degli oggetti sopra accennati. Inoltre, se le idee sono numeri, qual è il modo in cui esse possono essere causa? Forse nel senso che anche le cose reali sono altri numeri? E così, ad esempio, questo numero qui è un uomo, quell'altro invece è Socrate e questo altro ancora è Callia? E perché mai proprio questi numeri devono essere causa di questi qui? Anche se noi ammettiamo che quelli siano eterni e questi no, non ci sarà alcuna differenza. Se poi si sostiene che le cose di questo mondo sono rapporti numerici, come avviene ad esempio negli accordi musicali, non si potrà ovviamente negare almeno l'esistenza di un qualcosa di cui esse sono rapporti. E se esiste questo qualcosa, che è poi la materia, evidentemente anche gli stessi numeri non potranno essere altro che rapporti di due cose tra loro. Intendo dire ad esempio che se Callia è il rapporto numerico di fuoco, terra, acqua e aria, anche l'idea corrispondente sarà un numero di certe altre cose che fanno da sostrato, e anche l'uomo in sé, sia esso o no concepito come numero, verrà ad essere allo stesso modo un rapporto numerico e non già un puro numero. E per queste ragioni nessuna idea sarà vero e proprio numero. Inoltre, da una molteplicità di numeri si genera un unico numero. Ma come mai da una molteplicità di forme ideali se ne può generare una sola? E se si obietta che un numero non è generato da altri numeri in sé, ma da quelli che sono presenti in un altro numero, ad esempio nel 10.000, qual è la relazione delle unità tra loro? Se esse sono identiche specificamente, ne verrà fuori un insieme di assurdità. Se invece non c'è tra loro identità specifica, allora non saranno specificamente identiche tra loro, né le unità che appartengono allo stesso numero, né tutte quante le altre che si riscontrano in tutti gli altri numeri. Ma in che cosa, in verità, consisterà la loro differenza dal momento che esse sono prive di qualità effettive? Tali ipotesi non sono né logicamente corrette né conformi alla nostra concezione dell'unità. Oltre a ciò, si dovrà far ricorso a un altro genere di numero, di cui si occupa l'aritmetica, e si dovranno postulare tutte quelle entità che certuni chiamano intermedie. Ma in che modo questi intermedi esistono e da quali principi derivano? E per quale motivo si dovrà porre qualcosa di intermedio tra gli esseri di questo mondo e le stesse idee? Inoltre, le unità che costituiscono la diade dovranno derivare ciascuna da un'altra diade anteriore. Ma questo è assurdo. E poi, perché mai deve essere un'unità il numero che si assume come ideale? Ma a conforto delle nostre precedenti obiezioni, c'è ancora da osservare che se le monadi si concepiscono come differenti tra loro, si sarebbe dovuto parlare di loro negli stessi termini in cui i filosofi che pongono quattro o due elementi parlano di questi elementi stessi. E infatti, ciascuno di questi filosofi considera elemento non già il sostrato comune, ossia il corpo, ma il fuoco o la terra, tanto se vi sia qualcosa di comune, cioè il corpo, quanto se non vi sia. Ma quantunque le cose stiano così, si parla dell'uno come se esso fosse omogeneo allo stesso modo del fuoco o dell'acqua. Se si accetta questo, però, i numeri non saranno sostanze, anzi risulterà con chiarezza che se l'uno in sé esiste e se esso è principio, l'uno stesso dovrà avere una molteplicità di accezioni, giacché nel caso contrario si cadrebbe in un'assurdità. Nel nostro intento di far risalire le sostanze ai principi, noi facciamo derivare le lunghezze dal breve e dal lungo, ossia da una sorta di piccolo e grande, e facciamo derivare la superficie dal largo e dallo stretto, e il corpo solido dal pesante e dal leggero. Ma allora, come mai la superficie potrà contenere una linea o il solido una linea e una superficie? Ciò sarà impossibile, giacché largo e stretto, e pesante e leggero, sono tra loro eterogenei. E pertanto, come neanche il numero è contenuto nelle grandezze geometriche, giacché il molto e il poco sono eterogenei rispetto a queste, così risulta con evidenza che neppure nessun altro genere superiore sarà presente in quelli inferiori. Né d'altra parte il largo è, rispetto al pesante, un genere rispetto ad una sua specie, giacché in tal caso il corpo si ridurrebbe a una sorta di superficie. Ma oltre ciò, in base a che cosa i punti verranno ad essere presenti in una superficie? Padone stesso polemizzò a lungo contro questo genere di teorie considerando le asserzioni tipicamente geometriche e soleva invece, anzi insisteva sovente su questo punto, considerare le linee insecabili principio della linea. Tuttavia anche queste linee insecabili non possono non avere un limite e però l'esistenza del punto viene provata dal medesimo ragionamento che pone l'esistenza della linea. Insomma, mentre la filosofia ha come suo oggetto di indagine le cause dei fenomeni, proprio questa indagine noi abbiamo messa da parte, e ne prova il fatto che non esiste alcuna nostra teoria circa la causa da cui trae origine il movimento. E d'altra parte, proprio mentre noi crediamo di dare una spiegazione circa le sostanze dei fenomeni stessi, noi sosteniamo che esistono altre sostanze. Ma per dimostrare che queste ultime sono causa di quelle, noi parliamo a vuoto, giacché la partecipazione, come abbiamo già detto, non ha proprio nessun significato. E anche a proposito di quella causa che noi vediamo essere presente nelle scienze, quella causa cioè in virtù della quale compiono la loro opera l'intelletto intero e l'intera natura, neppure con essa, che a nostro avviso è uno dei principi, le idee hanno nulla a che vedere. E tuttavia, per i filosofi dei nostri giorni, la filosofia è venuta a identificarsi con le scienze matematiche, quantunque essi dichiarino che tali scienze debbano essere studiate in vista di ben altri fini. Inoltre, a proposito di quella sostanza che secondo questi filosofi funge da sostrato materiale, si potrebbe osservare che essa ha caratteri troppo matematici e che è predicato e differenza della sostanza e della materia, piuttosto che vera e propria materia. E tali sono ad esempio il grande e il piccolo, che in fin dei conti assomigliano al raro e al denso di cui parlano i naturalisti, quando sostengono che le differenze primarie del sostrato sono proprio queste, giacché esse sono una sorta di eccesso e di difetto. A proposito del movimento, invece, se il grande e il piccolo si identificano col movimento, ovviamente anche le idee saranno in movimento. Se invece si nega tale identità, da dove è uscito fuori il movimento? In tal caso l'intera indagine sulla natura viene ad essere soppressa. Ciò che sembra una cosa facile, cioè dimostrare l'identità di tutte le cose con l'uno, non può aver luogo, giacché se si segue il metodo della esposizione, che è una loro caratteristica, ne viene fuori non già l'identificazione di tutte le cose con l'uno, ma solo l'esistenza di un certo uno in sé, anche se si fanno a questi filosofi tutte le concessioni che si vogliono. Anzi, non risulta neppure questa, se non si concederà che l'universale sia un genere a sé, il che in taluni casi è impossibile. Né a proposito di questi enti che sono posteriori ai numeri, cioè a proposito di lunghezze, di superficie e di solidi, si possiede alcuna capacità di spiegare in che modo essi esistano o possano esistere, né quali siano le loro funzioni, giacché tali enti non possono essere idee, dato che essi non sono numeri, né possono identificarsi con gli stessi intermedi, i quali peraltro sono di natura matematica, né con gli esseri corruttibili, ma risultano costituire al contrario un quarto e diverso genere di esseri. In linea generale, la prosecuzione dell'indagine sugli elementi degli esseri, fatta senza distinguere le molte accezioni che si predicano dell'essere stesso, non approda ad alcuna scoperta, soprattutto se si intende indagare in questo modo da quali elementi sono composte le cose. Non è affatto possibile, in vero, concepire da quali elementi sono composti l'agire o il patire o il retto, ma, seppur ciò è possibile solo limitatamente alle sostanze. Di conseguenza, mettersi a cercare gli elementi di tutte quante le cose esistenti, o avere addirittura la pretesa di averli in proprio possesso, significa cadere in errore. In che modo, del resto, si potrebbero imparare a conoscere gli elementi di tutte le cose? È ovvio che, se questo è possibile, si deve negare la possibilità che si possegga precedentemente alcuna conoscenza. Come in vero, colui che si mette ad imparare la geometria può pure avere una precedente conoscenza di altre cose, ma non conosce anteriormente nulla di cui tale scienza si occupa, e a proposito di cui egli si accinge ad istruirsi. Così avviene anche in tutti gli altri settori delle scienze. Però, se esiste una scienza di tutte le cose, che sia tale quale certuni pretendono, un uomo che si accinga a studiarla non può avere precedentemente conoscenza alcuna. Eppure, d'altra parte, ogni apprendimento presuppone l'anteriore conoscenza o di ogni cosa o almeno di alcune, tanto se essa proceda per dimostrazione, quanto se proceda per definizioni, giacché è indispensabile che le parti stesse della definizione siano conosciute precedentemente e siano anzi ben note. E lo stesso vale anche per la conoscenza che procede per induzione. Ma se, d'altra parte, una tale conoscenza si trova ad essere innata in noi, è strano come mai sia in nostro possesso la più importante fra le scienze, senza che noi ce ne accorgiamo. Inoltre, come si potrà avere consapevolezza degli elementi costitutivi di un oggetto e come mai se ne può avere chiara conferma? Anche ciò, infatti, presenta una difficoltà, giacché ne potrebbe nascere una contestazione, come avviene a proposito persino di certe sillabe. Difatti, alcuni sostengono, ad esempio, che la sillaba za è composta da sigma, da delta e da alfa, mentre altri asseriscono che si tratta di un suono che è diverso e che non si identifica con nessuno di quelli che sono a noi familiari. Infine, per quanto concerne gli oggetti di una sensazione, come mai questi si possono conoscere, ove si prescinde da quella determinata sensazione? Eppure, una tale conoscenza dovrebbe essere possibile se sono identici gli elementi costitutivi di tutte le cose, e allo stesso modo che i suoni composti derivano da proprietà elementari del suono stesso. Paragrafo 10. Come superare l'infanzia della filosofia. Orbene, anche in base alle nostre precedenti osservazioni, risulta con evidenza che tutti i filosofi si sono dati a cercare, come sembra, le cause di cui noi abbiamo parlato nei trattati di fisica, e che non avremmo da introdurre nessun'altra al di fuori di quelle. Ma quei filosofi ne hanno parlato confusamente, e se per un verso si può dire che prima di noi si è parlato di tutte le cause, per un altro verso si può dire che non se ne è parlato in alcun modo. Ciò è dovuto al fatto che la filosofia, ai suoi primordi, si è espressa con balbettamenti su tutti i problemi, perché essa era giovane, e ancora agli inizi, alle prime armi, dato che, ad esempio, persino Empedocle afferma che anche un osso esiste in virtù di una proporzione, e questa proporzione non è altro se non l'essenza e la sostanza dell'oggetto. Ma allora si doveva dire che anche le carni e qualsiasi altra cosa esistono allo stesso modo, in virtù della proporzione, oppure negare questo anche per una sola cosa. In virtù di essa, infatti, e non già in virtù della materia, che egli chiama fuoco e terra e acqua e aria, possono esistere e carne e osso e qualunque altra cosa. Se qualcuno gli avesse dato questo suggerimento, egli non avrebbe potuto fare a meno di acconsentire, ma resta il fatto che egli non si è mai espresso con chiarezza. Su questi problemi, intanto, noi abbiamo dato schiarimenti anche nelle pagine precedenti, ma accingiamoci nuovamente ad affrontare tutte le aporie che possono nascere da quei problemi stessi, giacché forse, dalla loro soluzione, ci sarà facilitata la via per superare le ulteriori difficoltà.